sana. Ela kunyonwa thamani ya kunyonwa mana. Staki kubonga mo kurushe lawama. Ela roho yangu najua nikupenda sana. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yandele. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yandele. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia, ndugu zangu wanaulizia. Yeah, X. Yeah, X. Yeah, X. Yeah, X. Yeah, X.